I muri abbattuti diventano ponti, rileggendo Lord. Buonasera, buonasera a tutte le radioascoltatrici del martedì femminista e lesbico autogestito. Io sono Nancy e sono qui per continuare e per finire la lettura di Zami, una mia mitografia di Audre Lorde, un percorso che ho fatto con voi e con Elisa, che purtroppo stasera è assente e mi ha lasciato sola nell'ultima puntata, ma aveva motivi più che validi. Io la saluto e la ringrazio per essere stata con me tante volte in questo studio, per aiutarmi nella preparazione di queste letture. Io non mi dilungo oltre, siamo alla fine di questo libro e quindi vi do adesso il mio solito buon ascolto, a fra poco dopo lo stacco. Quando capimmo che Muriel e John stavano avendo una storia, sia io che Nick preannunciammo che sarebbe andata a finire male. Né John né Muriel avevano un lavoro. L'estate divenne un incubo di separazioni e rotture. Muriel se ne stava andando e io non riuscivo a lasciarla andare, anche se gran parte di me lo voleva. Mi accecava un vecchio sogno di noi due insieme per sempre, con paesaggio sullo sfondo. Di notte il pavimento intorno al mio letto solitario era tappezzato e butterato da vulcani attraverso i quali Muriel si muoveva con grande ardire e scarsa cautela. Tentavo di avvertirla, ma la mia lingua era muta. Il mio letto era sicuro, ma la mia vita era legata a dove lei metteva i piedi. Lava infuocata scorreva sul linoleum. Se solo avesse fatto le cose a modo mio, se solo mi avesse ascoltata, se avesse camminato dove io vedevo sentieri luccicare fiocchi tra le fiamme, allora saremmo stati al sicuro per sempre. Dio, fa che mi ascolti prima che sia troppo tardi. Ma eravamo compagne inconsapevoli in un minuetto intimo e complicato. Nessuna delle due poteva scappare. Nessuna delle due aveva i mezzi per riconoscere o cambiare i passi e il tono della nostra piccola danza serrata. Potevamo riuscire a distruggerci a vicenda, ma non potevamo andare oltre il dolore. La nostra convivenza adesso non era più nemmeno una questione di convivenza, ma nessuna delle due mollava né ammetteva di avere bisogno di quel legame devastante. Se l'avessimo fatto, avremmo dovuto chiederci perché. Ovviamente l'amore non bastava più come risposta. Adesso Muriel passava la maggior parte del suo tempo da Nick e Joan nel loro nuovo appartamento al pian terreno fra la Sesta Strada e Avenue B. Tutte le volte che eravamo sole, astio e recriminazioni mi saltavano fuori dalla bocca come rane impazzite, ricadendo sulla sua cupa testa indifferente. Prima del solstizio d'estate, Muriel si era di nuovo innamorata selvaggiamente. Io passavo le notti sveglia a chiedermi come avessi potuto perdere la mia ragazza per quella Joan, magra e slanciata, col sorriso indeciso e l'aria di perenne potenzialità. Il giorno in cui ricevetti i miei voti di diploma della Hunter, c'erano state rivolte in Polonia. Noi vivevamo in un quartiere polacco e le scalinate d'ingresso dei vicini pullulavano di eccitazione e apprensione quando andai a prendere le pagelle della cassetta della posta. Avevo preso C in matematica e A in tedesco. Era la prima A che avessi mai preso in un'altra materia a parte l'inglese. Ovviamente ero convinta che quel voto non avesse niente a che fare con me. Appena una sfida era stata superata, cessava di essere una sfida, divenendo qualcosa di scontato e ordinario, piuttosto che qualcosa che avevo ottenuto con difficoltà e per la quale potevo dunque andare giustamente fiera. Non riuscivo a riconoscere i miei successi né dare credito a me stessa per averli raggiunti. Prendere una A non era frutto del mio duro impegno e studio, ma solo qualcosa che era accaduto. Probabilmente il tedesco era diventato più semplice da capire rispetto a prima. E poi, se Muriel mi stava lasciando, ovviamente non potevo essere una che faceva qualcosa di giusto, come prendere A in tedesco con le proprie forze. Alcune notti non riuscivo a dormire, l'alba mi coglieva a fare avanti e indietro davanti al palazzo dove abitavano Joan e Nicky, la lama affilata di un coltello da macellaio su per la manica. Muriel era lì dentro e molto probabilmente non dormiva. Non avevo idea di cosa pensavo di fare, mi sentivo come un attore in un melodramma scadente. Il mio cuore sapeva ciò che la mia mente si rifiutava di capire. La nostra vita insieme era finita. Se non era Joan, sarebbe stata qualcun'altra. Un'altra parte di me insisteva che non era possibile che stesse accadendo tutto questo, mentre immagini di omicidio, morte, terremoto tormentavano i miei sogni. Il conflitto psichico mi stava dilaniando il cervello. Ci doveva essere qualcosa di diverso che avrebbe risolto tutto, cessato le mie luttuose agonie, restituito Muriel alla ragione. Se solo avessi capito come convincerla che questo comportamento era ridicolo, inutile, superfluo, avremmo potuto ripartire da lì. Ghiaccio secco mi picchiettava dietro gli occhi. Quando non tornavo a casa per giorni, braccavo le strade del village, al tempo stesso preda e cacciatrice di lei e Joan, alla mercé di incontrollabili uragani emotivi. Odio. Spiravo per le strade nel crepuscolo estivo, come un vento invernale, avvolta in una nuvola di dolore e rabbia così intense che nessuna persona sana di mente avrebbe osato intromettersi. Nessuno mi si avvicinava durante quei viaggi. A volte me ne dispiacevo, desideravo ardentemente una scusa per uccidere. I miei terribili mal di testa sparirono. Chiamai mia madre per sentire come stava. Di punto in bianco indagò su come stesse Muriel. «Come sta la tua amica? Sta bene?» Mia madre era proprio una sensitiva. «Ah, sta bene», disse in fretta, «è tutto a posto». Disperata perché mia madre non sapesse del mio fallimento, determinata a nascondere questa vergogna. Cominciarono i corsi estivi e mi iscrissi a inglese e tedesco. Fui depennata dopo le prime 2 settimane perché non mi ero mai presentata alle lezioni. Adesso lavoravo mezza giornata in biblioteca, il che significava meno soldi e più tempo. Piansi la perdita di Muriel in una follia di dolore con cui non avevo mai pianto Jenny. Era la seconda volta che nella mia vita succedeva qualcosa di intollerabile. Non potevo farci nulla, nulla per aiutare la mia situazione, nulla per contenerla né per cambiarla. Ero troppo fuori di me per pensare di cambiare me stessa. Perché se Muriel e io non riuscivamo a stare insieme, pur sapendo quello che sapevamo e condividendo quello che condividevamo, allora quali due donne al mondo potevano riuscirci? Se è per questo, quali due persone al mondo potevano riuscire a stare insieme? Lo strazio di tenere duro sembrava preferibile allo strazio di doverci riprovare, di tentare ancora di stabilire un contatto con un altro essere umano. Tutti i dolori che avevo vissuto e mai provato nella mia vita sbatacchiavano nella mia testa come pipistrelli grigi, mi beccavano gli occhi e costruivano nidi in gola e sotto il centro dello sterno. «Eudora, Eudora, cos'è che mi dicevi sempre?» «Sì, non sprecare niente, cica, nemmeno il dolore». Soprattutto il dolore. Spalmai il burro di cacao sulle cheloidi sul dorso del mio polso e della mia mano e quelle rimpicciolirono gradualmente. Iniziai a indossare i bracciali caraibici che mia madre mi aveva portato da Grenada. Coprivano le cicatrici e la pelle scolorita e io non dovevo più dare spiegazioni sull'accaduto. La maggior parte delle nostre amiche aveva vissuto il trauma della fine di un rapporto, ma questo qua era diverso, pensavo. Muriel e io avevamo davvero vissuto insieme per quasi 2 anni e ci eravamo dette per sempre. «Dimenticherai», disse Tony il giorno in cui mi insegnò a nuotare sott'acqua alla Huntington Station. «Aprili per Dio, apri gli occhi», mi urlava Tony attraverso l'acqua fredda. «È sempre più facile con gli occhi aperti». Mi immersi di nuovo, risalendo. «Comunque lo sai che Muriel è matta, non è degna di tutto questo». Ma per me lo era. Una notte bollente di agosto, una voce dal passato fece capolino dal telefono. Marie mi chiamò all'improvviso, dopo un anno di assenza. Stava a Detroit. Aveva vissuto nascondendosi, sfuggendo alla polizia attraverso il paese con suo marito Jim, lo schiavista di bianche del Texas. Alla fine Maria era scappata da lui e viveva adesso sotto falso nome a Detroit. Le nostre confidenze, fra le risatine sul divano letto nel soggiorno di sua madre, sembravano vecchie di secoli. Mi feci prestare dei soldi da Tony e andai a Detroit per una settimana. Fu un cambiamento gradito. I problemi di Maria erano esteriori e risolvibili a un livello più pratico. Non farsi trovare da Jim, cercare un nuovo lavoro, evitare famiglia e amici ficcanaso. Ci divertimmo a Detroit. A New York, Muriel era stata all'appartamento per dare da mangiare ai gatti e per mettere a posto i casini che aveva lasciato in cucina. Una cucina che durante l'estate, a causa della mancanza di interessamento da parte di entrambe, era diventata uno scavo archeologico contenente i resti delle vite di altre persone. Mise a posto la nostra collezione di attrezzi e chiodi e legno vecchio e i risultati potenzialmente belli del nostro un tempo idillico frugare domenicale in giro per la città. Rifinì anche il mobiletto di legno che avevamo costruito per conservarci della roba. E per finire, per farmi una sorpresa, decise di dipingere tutta la cucina. Ma Muriel aveva difficoltà a portare a termine qualsiasi progetto. Tornai da Detroit 2 giorni più tardi. Era pomeriggio inoltrato quando trascinai la valigia su per le familiari rampe di scale e aprì la porta d'ingresso. Barattoli aperti di vernice secca che puzzavano nella calura estiva. La cucina mezzo pitturata, giallo brillante su una parete e panna chiaro sulle altre, e i gattini che avevano ingoiato della trementina in cerca di qualcosa da mangiare. La piccola Crazy Lady e Scary Lou erano morti e rigidi sul pavimento sotto il tavolo della cucina. Misi i loro corpicini in una cassetta rivestita con una vecchia federa e li portai giù per la 7ª strada fino a East River Park mentre il sole cominciava a tramontare. Li lasciai lì, in una fossa scavata al momento, sotto un cespuglio, il più vicino possibile alle acque fangose del fiume, ricoperti di pietre e terra per tenere lontani i cani. I giocatori di pallone nel parco di fronte guardavano incuriositi. Camminando verso casa nella tarda sera d'estate, pensai alla rapida transizione da Detroit alla vecchia New York. Ma qualcosa aveva ceduto dentro di me. Non mi fermai sulla 6ª strada per chiedere a Muriel cosa fosse successo, non ce n'era bisogno. Lei aveva voluto bene ai gattini e li aveva lasciati morire. All'improvviso e curiosamente senza drammi, i 2 corpicini neri rigidi nella cassetta sotto il cespuglio divennero la prova tangibile di cui avevo bisogno, l'ultimo sacrificio. Quando 2 donne costruiscono una relazione, lo fanno insieme e le soddisfazioni attese sono reciproche, anche se non simili. A volte quella relazione diventa insoddisfacente o cessa di soddisfare i loro bisogni distinti. Quando questo accade, a meno che non ci sia un accordo reciproco di terminare la relazione simultaneamente, ci deve sempre essere una persona che decide di fare il primo passo. La donna che fa il primo passo non è necessariamente la più ferita delle due, né la più colpevole. La prima settimana di settembre, il Journal America prediceva che Elvis Presley, la cui voce ornava ogni jukebox e radio, sarebbe stato solo un fuoco di paglia. I vestiti di Muriel erano ancora a casa, per quanto ci vedessimo molto poco. Stavo all'angolo della 2ª Avenue aspettando l'autobus. Ormai, anche se faceva ancora piuttosto caldo, i giorni si andavano accorciando visibilmente. La sofferenza d'inizio d'estate si era alleggerita. Non avevo mai prima da allora desiderato che un'estate finisse, ma ora la tristezza dell'inverno incalzante di quell'anno mi sembrava un sollievo. La porta dell'autobus si aprì e io misi un piede sullo scalino. Tutto un tratto una musica esplose nella mia testa, come se un coro di angeli fosse salito a bordo dell'autobus della 2ª Avenue proprio dinanzi a me. Cantavano l'ultimo verso di un vecchio spiritual di speranza. Thank you. Le loro voci, soavi e potenti, sopra il frastuono del traffico della Seconda Avenue. Rimasi pietrificata sul primo gradino dell'autobus. «Ehi ragazzina, il biglietto!» Mi diede una scrollata, infilai le mie monete nelle mettitrice. La musica era ancora talmente reale che mi guardai attorno, sbalordita, mentre incespicavo prendendo posto. Non c'era quasi nessuno sull'autobus nella tarda mattinata e quei pochi che c'erano erano presi dalle solite occupazioni e per lo più in silenzio. L'orchestrazione angelica esplose ancora, riempendomi la testa con la chiarezza e la precisione delle parole. La musica era come scarica di energia, era piena di speranza e di promessa di vita. Ciò che più conta, una nuova strada, attraverso o oltre il dolore. I'll die this death on Calvary. I'm gonna die no more. La realtà fisica di quell'autobus squallido scivolò via da me. All'improvviso mi ergevo su un colle al centro di un paese sconosciuto e ascoltavo il cielo riempirsi di una nuova riscrittura del mio nome. Muriel andò via di casa, così come ci era trasferita, a poco venne a prendere i suoi ultimi libri proprio prima di Natale. Tornai a casa da scuola una sera e la trovai lì, che era venuta a prendere le ultime cose. Muriel si era addormentata tutta vestita sul divano. Era lì dove stava di solito a scrivere fino all'alba, tutte le volte che non riusciva a dormire. Il suo braccio sollevato contro la luce. Sul dorso di una delle sue mani aveva scarabocchiato un disegnino di margherite stilizzate, come si scrivono addosso i bambini quando si annoiano o stanno soli. La lampada proiettava un piccolo cerchio di luce sulla sua sagoma, facendola apparire vulnerabile e intatta. Guardando Muriel addormentata nella luce, pur dopo tanto dolore e rabbia, un amore nel profondo della mia memoria mi smosse il cuore. Lei aprì gli occhi, mi chiese cosa stessi guardando. Nulla, risposi allontanandomi, volevo evitare un altro scambio adirato. Lei non era la mia creazione, non era mai stata una mia creazione. Muriel era se stessa e io avevo solo aiutato quel cambiamento come lei aveva fatto con me. Io avevo liberato la sua rabbia nello stesso modo in cui lei aveva liberato il mio amore, ed eravamo preziose l'una per l'altra proprio per questo. Era solo la Muriel nella mia testa che dovevo lasciare andare o custodire per sempre, la Muriel che mi osservava dal divano. Apparteneva a se stessa, chiunque lei desiderasse essere. Da sola iniziai a passare per i bar durante la settimana, il Bag, il Page Tree, il Pony Stable, il Seven Steps. Un paio di volte quell'inverno, dopo che Joan l'aveva lasciata, trovai Muriel seduta in un angolo di qualche bar in lacrime. Non l'avevo mai vista piangere in pubblico prima. La sua voce aveva perso la sua dolcezza, a volte urlava o faceva scenate e veniva buttata fuori da un club. Non l'avevo mai nemmeno vista ubriaca prima. Mi ricordai della notte a Cuernavaca, quando avevo sentito Eudora urlare nei gradini del complesso, piena di tequila. Ubriaca, coi suoi capelli scuri scarmigliati, sparsi sul viso, il suo mignolo storto a mezz'asta, Muriel sembrava un angelo burroso, dannato, divenuto troppo umano. Nicky diceva che stava finalmente guarendo dagli effetti dell'elettroshock. A volte riaccompagnavo Muriel al suo appartamento e la mettevo a letto, a volte la portavo con me. Una notte, che dormiva sulla settima strada, rimasi sveglia nell'altra stanza, ascoltandola chiamare Joan a gran voce nel sonno e dicendole di venire a giocare nella neve. In ultimo, una sera, scendendo le scale del Seven Steps, intravidi Muriel accasciata nell'angolo più remoto del bar, con le spalle verso di me. Voltai i tacchi, uscendo in fretta, prima che si girasse e mi vedesse. Ero stanca di fare la parte dell'angelo custode. I ritmi rubati, imbastarditi, eppure familiari di Plisley drappeggiavano quell'inverno come ghirlande. Well, since my baby left me, will I find Muriel andò a casa a Stanford per Natale. Non fece ritorno in ogni senso. La primavera seguente firmò per farsi internare in un reparto per la terapia insulinica in un ospedale statale dove Tony lavorava in un programma sperimentale per schizofrenici. L'ultima cosa che fece Muriel prima di lasciare la settima strada fu bruciare tutte le sue poesie e i suoi diari in un vecchio secchio di lamiera zincata che aveva appoggiato sul pavimento davanti al divano verde nella stanza di mezzo. Il fondo del secchio lasciò una bruciatura permanente a forma di cerchio sul vecchio linoleum a fiori. Felice e io rimuovemmo il quadrato rovinato e lo rimpiazzammo con uno scampolo con la stessa decorazione che trovammo su Delancey Street la primavera dopo. Ford celeste che aveva soprannominato Blue Fish. Coi capelli accuratamente ondulati e le camicie col colletto abbottonato e i camicioni di franella grigi sembrava proprio una per bene, senza esserlo per niente una volta conosciuta meglio. Grazie agli inviti di Jerry e spesso con la sua macchina, Muriel e io eravamo state a delle feste nei fine settimana a Brooklyn e nel Queens, a casa di diverse donne. Una delle donne che avevo incontrato una di queste feste era Kitty. Quando rividi Kitty una sera anni dopo allo Swing Rendezvous o al Pony Stable o al Page 3, i vari bari occasionali per lesbiche che avevo cominciato a bazzicare da sola in quella primavera del 1957, fu semplice ricordare l'odore di St. Albans nella verde sera estiva del Queens e i copridivani in plastica e l'alcol e la brillantina e i corpi delle donne alla festa dove ci eravamo incontrate per la prima volta. In quella casa di legno, con la facciata di mattoni nel Queens, il salone rivestito in pino al piano di sotto era vivo e pulsante di musica forte, buon cibo e bellissime donne nere in tutte le diverse combinazioni di abbigliamento. C'erano vestiti estivi a righine, coi colletti inamidati, lucidi sbottonati sul collo in concessione al caldo dell'estate inoltrata, e pantaloni di gabardin bianca con pence sul davanti o in stile Ivy League per le più magre. C'erano i Covden jeans color grano, molto di moda quell'estate, con la piega stirata alla perfezione, e anche allora uno o due paia di pantaloni grigi con chiusura sul dietro, abbinati a scarpe di camoscio ben gessate. C'erano cinturoni a profusione, cinture spesse di cuoio nero con lucide fibbie sottili, provenienti da negozi di articoli militari, e camicie stile Oxford nel nuovo tessuto d'acron non stiro, con la sua consistenza rigida e trasparente. Queste camicie a maniche corte dal taglio maschile erano infilate per bene dentro le cinture dei pantaloni o dentro gonne dritte, aderenti e strette. Solo alle pochissime camicie di jersey era permesso di ricadere liberamente fuori. I Bermuda e i loro cugini più corti, i Jamaica, stavano già comparendo sulla scena Lesbo Chic, le cui regole erano spietatamente ed esattamente come le tirannie della moda della Settima Avenue o di Parigi. Quei pantaloncini venivano indossati sia dalle butch che dalle femme, e per questa ragione furono incorporati lentamente negli armadi delle lesbiche da moda per lanciare segnali chiari. L'abbigliamento era spesso il modo principale di rendere noto il proprio ruolo sessuale. Qua e là, per tutta la stanza, sprazzi di gonne a campana molto colorate, lunghe sotto al ginocchio, con corpini aderenti scollati, si potevano vedere insieme a tubini attillati e lucidi tacchi a spillo, accanto a scarpe da uomo scamosciate e scarpe da ginnastica e mocassini. Le femme portavano i capelli con la permanente a caschetto o legati alti sulla testa in ciuffi di riccioli scolpiti oppure sfrangiati intorno al viso. Quella dolce fragranza di pulito da salone di bellezza che aleggiava in tutti i ritrovi fra donne nere degli anni 50 c'era anche lì, apportando quell'odore riconoscibile di pettine caldo e brillantina agli aromi della stanza. Le bucce portavano i capelli tagliati corti, con la punta dietro, o a paggetto, o a volte a barboncino, con ricci fitti che anticipavano lo stile afro-naturale. Ma questa era una rarità, e io riesco a ricordare solo un'altra donna, a parte me, che non avesse i capelli stirati, ed era una di nome Ida, che conoscevo dalla Lower East Side. Su un tavolo, dietro al bancone del bar, c'erano bottiglie aperte di gin, bourbon, scotch, bevande gassate e altre bibite. Il bancone era coperto di piccole prelibatezze di ogni sorta, patatine e intingoli e salatini e canapè decorati con il solito tocco di maionese e burro di sardine. C'era anche un vassoio di deliziose ali di pollo fritte e una ciotola di insalata di uova e patate condita con l'aceto. Scodelle di olive, sottacelli e sottaceti attorniavano le portate principali, insieme ai piatti di mele selvatiche e cipolline dolci sugli stuzzicadenti. Ma il pezzo forte su tutto il tavolo era un enorme vassoio di succulento arrosto di manzo affettato sottile, poggiato su una padella piena di ghiaccio a pezzi. Sul vassoio beige ogni fetta di carne al sangue era stata sistemata con amore e ripiegata individualmente a forma di vulva con un minuscolo tocco di maionese sul punto cruciale. La carne rosata avvolta intorno al punto giallo crema chiaro dava forma a sculture suggestive che riscuotevano grande successo fra tutte le donne presenti, e Pat, a casa della quale si teneva la festa e che aveva avuto l'idea delle sculture di carne, con un sorriso si prendeva i tanti complimenti per il suo vassoio con un cenno grazioso del lungo collo che sosteneva la sua testa da danzatrice. Il mix particolare di odori e musica nella calura fa spazio nella mia testa alla donna dagli zigomi alti, scura e giovane, con la voce di seta e gli occhi indagatori. Qualcosa della sua bocca mi ricordava Anne, l'infermiera con cui avevo lavorato appena andai via di casa. Appollaiata sul bordo della panca bassa dove ero seduta, Kitty rimuoveva macchie di rossetto dagli angoli della bocca in maniera assente col delicato movimento dell'indice verso il basso. Audrey, un bel nome. E l'abbreviativo di cosa? I peli umidi delle mie braccia si irrigidirono al suono di Ruth Brown e per il caldo. Non sopportavo che qualcuno combinasse casini col mio nome e nemmeno coi nomignoli. Niente, è solo Audrey. Kitty, di che cos'è l'abbreviativo? Afrechete, disse, schioccando le dita a tempo col ritmo del suo nome e con una lunga risata. Sono io, la gattina nera, rise ancora. Mi piace come porti i capelli. Sei una cantante? No. Continuò a fissarmi coi suoi grandi occhi penetranti. Improvvisamente ero troppo imbarazzata dal non sapere cos'altro dire, incrociando il suo tranquillo sguardo erotico. Allora mi alzai di scatto e nel mio miglior tono succinto, alla Laurel, dissi: «Balliamo?» Il suo viso era ampio e liscio sotto il trucco troppo chiaro, ma mentre ballavamo un foxtrot iniziò a sudare e la sua pelle prese un colorito profondo e brillante. Kitty socchiudeva gli occhi mentre ballava e il suo incisivo bordato d'oro luccicava quando rideva o quando di tanto in tanto si mordeva il labbro inferiore. Già la tagliata stile Jack Eisenhower aveva la cerniera aperta a metà per il caldo estivo, mostrando clavicole che sporgevano come ali brune dal suo lungo collo. Gli indumenti con la cerniera erano molto apprezzati fra le ragazze gay più progressiste, perché potevano essere indossati ugualmente dalle butch e dalle femme in certe occasioni senza provocare commenti negativi o molesti. Una cintura nera sulla gonna khaki, stretta, ben stirata di Kiki, faceva pari con la mia, a parte che la sua era nuova, e la sua ricercatezza pulita mi faceva sentire quasi trasandata nei miei vecchi pantaloni da cavallerizza. La trovavo molto carina e desideravo poter ballare con la sua stessa scioltezza e lo stesso agio. Portava i capelli stirati a boccoli corti e leggeri e in quella stanza piena di capelli ondulati e corti da maschio e a caschetto era lo stile più vicino al mio. Kitty odorava di sapone e gennatè e continuavo a pensare fosse più grossa di quanto era perché aveva un odore familiare che associavo sempre alle donne abbondanti. Sentì un altro odore, come di erba speziata, che più tardi identificai con una combinazione di olio di cocco e brillantina giardrella alla lavanda. Aveva una bocca carnosa e il suo rossetto era scuro e brillante, una nuova tonalità della Max Factor chiamata tinta di guerra. Il ballo seguente era un lento, adatto a me. Non sapevo mai se condurre o seguire in molti degli altri balli e persino lo sforzo di decidere chi faceva cosa era difficile per me, come dover decidere ogni volta la differenza fra la destra e la sinistra. In qualche modo quella semplice distinzione non era diventata automatica per me e tutte quelle decisioni da prendere mi lasciano di solito con poca energia per godermi il movimento della musica. Ma coi lenti era diverso. Predecessore del futuro One Step era in realtà un semplice ancheggiamento lento. Nella luce bassa, rossa, l'affollamento nel salotto di Sant'Alban ci lasciava spazio solo per tenerci strette in maniera onesta. Le braccia intorno al collo e la vita, e la musica lenta e intima muoveva i nostri corpi più che i nostri piedi. Tutto ciò era successo a Sant'Alban, nel Queens, quasi 2 anni prima, quando Muriel mi sembrava la certezza della mia vita. Ora, nella primavera di questo nuovo anno, avevo di nuovo il mio appartamento tutto per me, ma ero in lutto. Evitavo di fare visite alle amiche accoppiate o di invitare tanta gente a casa perché la felicità delle coppie o anche il loro semplice stare insieme mi faceva soffrire troppo per quell'assenza nella mia vita, il cui vuoto più grande si chiamava Muriel. Non ero tornata nel Queens o in nessun'altra festa da quando Muriel e io avevamo rotto e le uniche persone che vedevo al di fuori del lavoro e della scuola erano le amiche che vivevano nel village e che venivano a cercarmi o in cui mi imbattevo nei bar. Ragazza, la maggior parte di loro erano bianche. Kitty mi aveva vista per prima. Ci stringemmo la mano, il bar non era affollato quindi probabilmente eravamo al Page 3 che non si riempiva prima di mezzanotte passata. «Dov'è la tua ragazza?» Le dissi che Muriel e io non stavamo più insieme. Vero? Mi dispiace. Eravate carine insieme voi due. Ma che ci vuoi fare? Da quanto tempo fai la vita? Fissai Kitty in volto senza risponderle, provando a pensare come spiegarle che per me esisteva solo un tipo di vita, la mia, in qualunque modo decidessi di viverla. Ma sembrò proprio rubarmi le parole di bocca. Non che abbia importanza, aggiunse, finendo la birra che aveva portato in fondo al bar dove sedevo io. Ne abbiamo solo una, almeno in questo momento. Mi prese il braccio. Vieni, balliamo. Kitty era ancora elegante e curata, ma con una scioltezza più semplice nel suo sorriso e molto meno trucco. Senza maschera, la sua pelle di cioccolato e la bocca profondamente scolpita mi ricordavano un bronzo del Benin. Portava i capelli ancora stirati ma più corti, e i suoi bermuda neri e le calze al ginocchio facevano pandan con i suoi mocassini incredibilmente lucidi. Una maglia nera a collo alto completava il suo look. In qualche modo stavolta i miei jeans non sembrano trasandati in confronto ai suoi, solo una variante del suo abbigliamento. Forse perché le nostre cinture erano ancora uguali, larghe, nere e con la fibbia d'ottone. Ci spostammo nella stanza posteriore e ballammo prima sulle note di Goody Goody di Frankie Lemon e poi su quelle di Calypso di Bellafonte. Ballando con lei questa volta sentivo dov'era il mio corpo e dove stava andando, e quella sensazione per me era più importante che non portare o seguire. La stanza sembrava molto calda, anche se era soltanto primavera, e Kitty e io ci sorridemmo alla fine del pezzo. Stavamo ad aspettare che calasse il disco successivo e cominciasse un altro ballo. Era un lento di Sinatra. Le fibbie delle nostre cinture continuavano a interferire mentre ci avvicinavamo al ritmo della musica sinuosa e le facemmo scorrere di lato alla vita quando nessuna guardava. Negli ultimi mesi, da quando Muriel se n'era andata, sentivo la mia pelle fredda e arida come sottile cuoio congelato che mantiene la forma prevista. Quella sera, sulla pista da ballo del Page Tree, mentre Kitty e io toccavamo i nostri corpi ballando, sentii il mio carapace ammorbidirsi lentamente e infine sciogliersi, fino a sentire un caldo presagio di scivolamento quasi dimenticato, che si alternava, come la marea, a ogni contatto dei nostri corpi in movimento. Sentivo qualcosa smuoversi lentamente anche in lei, come una corda tesa che si allentava, e alla fine non tornammo più verso il bar fra un ballo e l'altro, ma rimaremmo in pista in attesa di un altro disco, ballando solo fra di noi. Poco dopo la mezzanotte, con mutua e tacita decisione, abbandonammo il Page insieme, camminando per isolati attraverso il West Village fino a Houston Street, dove aveva parcheggiato la sua macchina. Mi aveva invitata a casa per un drink. Tra i miei seni il sudore causato dal nostro ballare si stava raffreddando nella pungente aria notturna mentre attraversavamo Sheridan Square. Mi fermai per salutare con la mano i clienti fissi attraverso le vetrate del Jim Atkins all'angolo di Christopher Street. Nella sua auto cercavo di non pensare a cosa stessi facendo mentre ci dirigevamo a nord quasi senza parlare. Avevo un dolore alla bocca dello stomaco che si irradiava come mercurio fin giù tra le mie gambe. L'odore del suo corpo caldo, misto al lieve odore di acqua di colonia e brillantina, alla lavanda, impregnava la macchina come un unguento. I miei occhi si riposavano guardando le sue mani speziate al cocco sul volante e la curva delle sue ciglia mentre badava alla strada. Mi rendevano facile rispondere con occasionali grugniti amichevoli ai suoi sporadici tentativi di conversazione. Tanto che non andavo per bar in centro, sai? È strano, non so perché non ci vado più spesso. Ma alle volte c'è qualcosa che mi dice di andare e io vado. Immagino sia diverso quando si vive lì vicino. Rivolse il suo sorriso screziato d'oro verso me. Nell'attraversare la 59esima strada ebbi un momento di panico. Chi è questa donna? E se voleva solo offrirmi il drink che mi aveva offerto uscendo dal Page? E se avevo completamente frainteso la portata del suo invito e mi fossi ritrovata lontana dal centro alle 3 di una domenica mattina? Avevo abbastanza soldi nei jeans per tornare a casa? Avevo lasciato abbastanza cibo per i gattini? Sarebbe venuta Flea con la sua macchina fotografica l'indomani e avrebbe dato da mangiare ai gatti se non ci fossi stata? Se non ci fossi stata, le implicazioni di quel pensiero mi turbavano così tanto da gettarmi quasi fuori dalla macchina. Avevo portato solo i soldi sufficienti per una birra quella sera, sapevo quindi di non essere sbronza, e fumavo le canne solo in occasioni speciali. Una parte di me si sentiva come una leonessa furente, infiammata dal desiderio. Persino le parole nella mia testa sembravano prese in prestito da un romanzetto da quattro soldi. ma quella parte di me era ubriacata dalla vicinanza delle cosce di questa eccitante donna scura sconosciuta che con calma attraversava la parte alta di Manhattan coi suoi mocassini di vernice e il suo soprabito svasato di lana di cammello e il suo parlare rilassato con la sua mano inguainata che di quando in quando toccava la mia gamba coperta di denim per enfatizzare qualcosa. Un'altra parte di me si sentiva imbranata, inetta e come se avesse 4 anni. Ero l'idiota che giocava a fare l'amante, in procinto di essere scoperta e derisa per la mia presunzione e anche respinta immediatamente. Sarebbe stato possibile, era mai possibile, per 2 donne condividere il fuoco che sentivano quella notte senza intrappolare o soffocare a vicenda? Agognavo questo come agognavo il suo corpo, in dubbio su entrambe le cose, bramosa di entrambe. E com'era possibile che stessi sognando il rollio del mare di questa donna dentro e intorno al mio, quando solo qualche ora prima e per molti mesi prima ero stata a piangere la perdita di Muriel, tanto sicura che il mio cuore non sarebbe più guarito? E se allora avessi sbagliato? Se il nodo all'inguine fosse sparito, sarei saltata fuori dall'auto al primo semaforo, o così credevo. Uscimmo da Park Drive, fra 7th Avenue e la 110ª strada, che appena scattò il verde sulla strada ora deserta, a freghetta girò il suo bellissimo viso dalle labbra grandi verso di me senza l'accenno di un sorriso. I suoi occhi luminescenti dalle grandi palpebre guardavano nei miei in maniera diretta e impressionante. Era come fosse diventata improvvisamente un'altra persona, come se il muro di vetro formato dai miei occhiali e dietro il quale ero abituata a nascondermi si fosse improvvisamente dissolto. Con una voce senza inflessioni, quasi formale, che corrispondeva perfettamente e di conseguenza eliminava tutti i miei interrogativi, mi chiese: «Puoi rimanere a dormire?» E allora mi resi conto che forse si era fatta le stesse domande su di me, quelle che io mi ero fatta su di lei. La commistione di delicatezza e di franchezza mi lasciò quasi senza fiato, commistione ancora rara e preziosa. Perché oltre la rassicurazione che quella sua domanda mi offriva, una conferma che il canto della mia carne, questa attrazione non era solo nella mia testa, oltre la rassicurazione c'era un insieme di delicate supposizioni poste in quella semplice frase che riverberava nella mia testa di poeta. Offriva a entrambe una via d'uscita, se necessaria. Se la risposta a quella domanda fosse stata per caso un no, allora sarebbe stata proprio la sua sintesi a indicare un impedimento piuttosto che una scelta. Non posso, piuttosto che non voglio. Il dovere di un altro impegno, iniziare presto al lavoro, il gatto malato, era più accettabile di un rifiuto vero e proprio. Persino la frase «rimanere a dormire», più che un eufemismo per fare l'amore, era uno spazio di manovra in cui muoversi liberamente. Se ad esempio avessi cambiato idea prima del semaforo e deciso che no, non ero gay dopo tutto, allora una più semplice amicizia sarebbe stata comunque possibile. Mi fece abbastanza forza per dire, nel mio miglior tono casual alla Lower East Side, «mi piacerebbe molto». Maledicendomi per le parole banali e chiedendomi se fiutava il mio nervosismo e il mio disperato desiderio di essere cortese e disinvolta mentre affogavo nel puro desiderio. Parcheggiammo mezzo dentro e mezzo fuori di una fermata dell'autobus fra Manhattan Avenue e la 113ª strada nel vecchio quartiere di Jenny. C'era qualcosa di Kitty che mi faceva sentire come sulle montagne russe, passando velocemente da idiota a dea. Dopo aver preso la posta dalla cassetta rotta ed esserci arrampicate per le 6 rampe di scale fino alla sua porta d'entrata, sentii che il mio corpo non aveva mai desiderato tanto quanto entrare nel suo soprabito e abbracciare a frechete, facendo combaciare il suo corpo esattamente con ogni curva del mio, mentre la lana di cammello beige fluttuava intorno entrambe e la sua mano inguantata teneva ancora la chiave. Nella luce fioca del corridoio, le sue labbra si muovevano come spuma sul bagnasciuga. Con angolo cottura e lunghe finestre strette sotto l'alto soffitto dell'ingresso. Paralleli a ogni finestra erano incassati scaffali di altezze diverse. Su questi erano buttati, appesi, appoggiati e messi in piedi, vaso dopo vaso di argilla, con piante verdi arruffate, a foglie grandi e piccole, di ogni forma e condizione. Più tardi arrivai ad amare il modo in cui le piante filtravano la luce dall'esposizione a sud, attraverso la stanza. La luce colpiva il muro opposto, in un punto a circa 15 centimetri sopra l'acquario, da oltre 100 litri, che mormorava leggermente come un gioiello silenzioso, appoggiato sulle sue gambe in ferro battuto, raggiante e misterioso. Rilassati e veloci pesci a corbaleno, traslucidi, sfrecciavano avanti e indietro nell'acqua illuminata, cercando bocconcini di cibo ai lati della vasca di vetro e nuotando dentro e fuori il meraviglioso mondo creato dalla ghiaia colorata e i tunnel e ponti di pietra che ricoprivano il fondo dell'acquario. A cavalcioni di un ponte, la testa piegata verso il pesciolino che nuotava fra le sue gambe, c'era una bambolina marrone snodabile, col corpo nudo, sciacquato dalle bolle che risalivano dal condotto d'aria dietro di lei. Fra le piante verdi e l'acquario magico c'era una stanza i cui elementi non riesco più a distinguere nella mente, a parte il divano, coperto da un plaid che diventava un letto a due piazze e che facemmo traballare mentre ci amavamo tutta la notte, fino al mattino chiaro della domenica, chiazzato di luce solare verde che entrava dalle finestre di Afrechete. Mi svegliai nella sua casa, cosparsa di luce. Il cielo intravisto attraverso le finestre del monolocale all'ultimo piano e Afrechete, conosciuta, addormentata, contro il mio fianco. Il ciuffetto di peli sotto il suo ombelico si appiattiva sotto la mia lingua come le pagine consumate di un libro sfogliato a lungo. Quante volte, al volgere dell'estate, ero arrivata a quell'isolato dalla 8th Avenue, con il bar all'angolo che gettava in strada un odore di segatura e alcol, mentre un numero indeterminato di giovani e vecchi uomini neri facevano a turno a sedersi sopra due cassette del latte capovolte a giocare a dama. Giravo l'angolo sulla 103esima strada, verso il parco, coi miei passi sempre più svelti e i polpastrelli desiderosi di giocare nella sua terra. E mi ricordo di Afrechete, venuta a me da un sogno, sempre dura e reale, come la pelura di fuoco lungo il bordo inferiore del mio ombelico. Mi portava cose vive dal bosco e dalla sua fattoria, piantata a taro e cassava. Quei frutti magici che Kitty comprava al mercato delle Indie Occidentali lungo l'Enox Avenue, o nelle bodegas portoricane dentro l'affollato mercato Far Park Avenue e la 116esima strada sotto il capannone della stazione centrale. L'ho trovato sotto il ponte, era la frase di un tempo immemorabile, per spiegare in maniera adeguata che qualunque cosa fosse era arrivata da un posto quanto più lontano nel tempo e vicino a casa fosse possibile, vale a dire autentico. Compravamo deliziose mele renette, rosse, della misura dei frutti di acajou francesi. C'erano piantagioni verdi che sbucciavamo a metà e piantavamo per tutta la lunghezza del frutto, nel corpo, l'una dell'altra, fino a che i petali della buccia non giacevano come viticci di fuoco verde sull'oscurità ricciuta fra le cosce spiegate. C'erano mini banane, rosse, mature, tozze e dolci, con cui ti aprivo le labbra delicatamente per inserire il frutto sbucciato nel tuo fiore rosso uva. Ti tenevo distesa fra le tue gambe marroni, passando dolcemente la lingua fra le tue foreste familiari, leccando piano e ingoiando, mentre movimenti ondulatori e le maree del tuo corpo forte lentamente trasformavano la banana matura in una crema beige che si mischiava agli umori della tua carne elettrica. I nostri corpi si rincontravano, ogni superficie entrava in contatto col fuoco dell'altra, dalle punte dei nostri piedi arcuati fino alle nostre lingue e chiuse nei nostri ritmi selvaggi, ci cavalcavamo in quello spazio di tuono, gocciolando come luce dalla punta delle nostre lingue. Eravamo tutte e due unite, poi ci separavamo e il sudore luccicava sui nostri corpi come olio di mandorle. Afrechite cantava in un piccolo club più a nord della città, a Sugar Hill. A volte faceva la commessa in un supermercato e a volte, senza alcun preavviso, si presentava al Pony Stable o al Page 3 il sabato sera. Una volta, tornando a casa tardi sulla settima strada, la trovai seduta sulla scalinata d'ingresso alle 3 di mattina, con una bottiglia di birra in mano e intorno alla testa una pezza di stoffa africana a colori vivaci. E ci affrettammo dirette a nord per la città vuota, all'alba, con i tuoni di un temporale estivo che crepitavano sopra di noi e le strade della città bagnate, che cantavano sotto le ruote della sua piccola Nash Ramble. Esistono delle verità che ci portiamo sempre appresso e da cui alla fine diventiamo dipendenti. Il sole si sposta verso nord in estate, il ghiaccio che si scioglie rimpicciolisce, la banana ricurva è la più dolce. Afrechete mi insegnò le radici, nuove definizioni per i nostri corpi di donna, definizioni che prima mi ero solo allenata a capire. Già dall'inizio dell'estate le mura dell'appartamento di Afrechete erano sempre calde al tocco a causa del caldo che batteva sul tetto e la brezza occasionale che entrava dalle sue finestre frusciava fra le sue piante e sfiorava i nostri corpi levigati dal sudore, a riposo dopo l'amore. A volte parlavamo di cosa significasse amare le donne e di quanto ci fosse di conforto nell'occhio del ciclone, indipendentemente da tutte le volte che dovevamo morderci la lingua e stare zitte. Afrechete aveva una figlia di 7 anni che aveva lasciato con sua madre giù in Georgia e avevamo tanti sogni in comune. Lei potrà amare chiunque vorrà, disse Afrechete appassionata mentre si accendeva una Lucky Strike. E anche lavorare dove diamine le pare piace, se ne occuperà la sua mamma. Una volta parlammo di come le donne nere si fossero impegnate, senza aver scelta, a portare avanti una battaglia nella roccaforte dei nemici troppo e troppo spesso, e di come i nostri paesaggi mentali fossero stati saccheggiati e logorati da quelle ripetute battaglie e campagne. «E ho le cicatrici per provarlo», sospirò. «Però ti rende forte, piccola». Se non soccombi. È questo che mi piace di te. Sei come me. Io e te ce la faremo perché siamo troppo forti e matte per non farcela. E ci abbracciammo e ridemmo e piangemmo per il prezzo che avevamo pagato, per quella forza e quanto era difficile da spiegare a chi non lo sapeva già, che fragile e forte dovevano essere una cosa sola per poter funzionare, come la nostra gioia insieme al pianto, mischiati sul cuscino sotto le nostre teste. Il sole filtrava dall'alto su di noi attraverso le finestre impolverate, attraverso la massa di piante verdi di cui Afrechete si occupava religiosamente. Presi un avogato e me lo rigirai fra le mani finché la buccia divenne un contenitore verde della poltiglia morbida del frutto, il nocciolo duro al centro. Riemersi da un bacio sulla tua bocca per mordicchiare un buco nella buccia del frutto vicino al picciolo a forma di ombelico. Spremetti il succo giallo verdino in sottile linee rituali avanti e indietro, sopra e intorno alla tua pancia color noce di cocco. L'olio e il sudore dei nostri corpi mantenevano liquido il frutto e io lo massaggiai sulle tue cosce e fra i tuoi seni finché la tua scurezza splendente come luce attraverso un velo di avogado verde chiarissimo, un manto di pera d'idea che leccai lentamente dalla tua pelle. Poi dovevamo alzarci a raccogliere torsoli e bucce in un sacchetto e più tardi metterle fuori per il netturbino, perché se li lasciavamo vicino al letto anche solo per un po' avrebbero richiamato le orde di scarafaggi sempre in attesa fra le mura dei caseggiati di Harlem, in particolare quelli più piccoli e vecchi sotto la collina di Morning Consolidate. Afrechete non viveva lontano dalla casa della nonna di Jenny. A volte mi ricordava Ella, la matrigna di Jenny, che con su un grembiule e una scopa andava in giro trascinando i piedi fuori dalla stanza dove io e Jenny stavamo distese sul divano letto. Cantava la sua incessante canzoncina stonata ancora e ancora. E un giorno Jenny aveva girato la testa nel mio grembo e aveva detto con imbarazzo: «Sai, a volte non so se Ella è pazza o stupida o divina». E adesso credo che la dea parlasse anche attraverso Ella, Ma ella era troppo distrutta e anestetizzata dalla brutalità di Philip per credere alle proprie parole, e noi, Jenny ed io, troppo arroganti e infantili, e a ragion veduta, essendo poco più che bambine, per capire che la nostra sopravvivenza poteva benissimo risiedere nell'ascoltare la canzoncina stonata della donna con la scopa. Persi mia sorella Jenny, abbandonata al mio silenzio e al suo dolore e disperazione, alla nostra rabbia e alla crudeltà del mondo che avanzando distrugge la propria gioventù, e non per un gesto ribelle o sacrificio o speranza in un'altra vita dello spirito, ma per non aver notato o aver tenuto conto della distruzione. Non sono mai stata in grado di tapparmi gli occhi davanti a quella crudeltà, il che, secondo una famosa definizione di sanità mentale, mi rende non sana di mente. La casa di Afrechete era la più alta, vicino all'angolo, prima dell'inizio delle alte rocce di Mornington Side Park, dall'altra parte della strada. E una notte, sotto la luna di metà estate, portammo una coperta sul tetto. Lei viveva all'ultimo piano e per un tacito accordo il tetto apparteneva per lo più a chi doveva vivere sotto la sua calura. Il tetto era la spiaggia principale degli abitanti dei caseggiati ed era conosciuto con il nome di spiaggia di asfalto. Bloccammo la porta del tetto con le nostre scarpe e stendemmo la coperta a ridosso della canna fumaria fra il suo muro di mattoni caldi e il parapetto alto della facciata del palazzo. Questo avveniva prima che il bagliore dei lampioni allo zolfo derubasse le strade di New York di alberi e ombra e l'incandescenza dei lampioni arrivasse fin lassù. Da dietro al parapetto riuscivamo a vedere le forme scure delle superfici di basalto e granito stagliarsi sopra di noi dal parco all'altro lato della strada, delineate curiosamente vicine e suggestive. Ci sfilammo le camiciole di cotone che avevamo addosso e ci avvicinammo contro i nostri seni bagnati all'ombra della canna fumaria sul tetto, facendo la luna, l'onore, l'amore, mentre l'incerta luce spettrale che fluttuava dalla strada faceva gara con la dura dolcezza d'argento della luna piena, riflessa negli specchi luccicanti dei nostri scuri corpi scivolosi, sacra come l'oceano durante l'alta marea. Ricordo il sorgere della luna contro le superfici inclinate delle sue cosce rialzate e la mia lingua cogliere la vena d'argento riflessa sul cespuglio ricciuto del suo scuro pube marezzato. Ricordo la luna piena come pupille bianche al centro delle tue grandi iridi. Le lune sparirono e i tuoi occhi divennero scuri mentre ti mettevi su di me e io sentivo la luce d'argento della luna mischiarsi all'umore della tua lingua sulle mie palpebre. Afrechete, Afrechete, cavalcami fino ai crocevia dove dormiremo avvolte nel potere delle donne. Il suono dell'incontro dei nostri corpi è la preghiera di ogni straniera e sorella affinché i demoni vinti ad ogni crocevia non ci seguano nei nostri viaggi. Quando scendemmo dal tetto, più tardi, era la soffocante mezzanotte inoltrata dell'estate di West Harlem, con la musica di sottofondo per strada e l'irritante pianto di bambini troppo stanchi e accaldati. Lì vicino, madri e padri sedevano sulle scalinate o sopra cassette del latte e sedie da campeggio, sventolandosi in maniera assente e parlando o pensando al solito lavoro l'indomani e al troppo poco sonno. Non eravamo sulle sabbie chiare di Ouidat e nemmeno sulle spiagge di Winneba o Annamabu con le palme da cocco che applaudono piano e grilli che tengono il tempo con lo sciabordio dell'infido bellissimo mare pieno di morchia. Era la 113ª strada su cui scendemmo dopo il nostro incontro sotto la luna del solstizio d'estate, ma le madri e i padri ci salutarono con un sorriso mentre passeggiavamo verso 8th Avenue mano nella mano. Non avevo visto Afrechete per qualche settimana a luglio, allora andai a casa sua una sera, dato che non avevo il telefono. La porta era chiusa a chiave e non rispose nessuno quando chiamai per le scale. Una settimana più tardi, Midge, la barista del Pony Stable, Mi diede un biglietto da parte di Afrechete, dove mi diceva che aveva uno spettacolo ad Atlanta a settembre e se ne andava per far visita a sua madre e a sua figlia per un po'. Ci eravamo incontrate come elementi in eruzione in una tempesta elettrica, scambiandoci energia, condividendo la carica breve e potente. Poi ci eravamo divise, passate, ricreate, riformate al meglio per lo scambio. Non incontrai mai più Afrechete, ma la sua impronta rimane sulla mia vita, con la risonanza e la forza di un'emozione tatuata. Ogni donna che ho amato ha lasciato su di me la sua impronta, nella quale ho amato una parte inestimabile di me stessa che era fuori di me, talmente diversa che dovevo allungarmi e crescere per riconoscerla. E in quella crescita siamo arrivate alla separazione, al punto dove comincia il lavoro, un altro incontro. Un anno dopo terminai la scuola di biblioteconomia. La prima estate di un nuovo decennio volgeva al termine mentre mi allontanavo dalla settima strada un'ultima volta, lasciando la porta aperta per chiunque avesse bisogno di riparo. C'erano 4 poesie incomplete, scarabocchiate sul muro del bagno, fra il gabinetto e la vasca, altre sugli stipiti delle finestre e le assi del pavimento, sotto il linoleum a fiori, mescolate ai fantasmi odorosi di ricchi cibi. L'involucro di questo luogo era stata la mia casa per 7 anni, il tempo che il corpo umano impiega a rinnovarsi completamente, cellula dopo cellula. E in quegli anni la mia vita era diventata sempre più un ponte e un campo di donne. Zami. Zami, un nome kariakou per le donne che lavorano insieme come amiche e amanti. Portiamo con noi le nostre tradizioni, comprare il sale Red Cross e una scopa nuova di saggina per il mio nuovo appartamento, lavoro nuovo, casa nuova, il nuovo che vive il vecchio in modo nuovo, ricreare con le parole le donne che hanno contribuito a darmi sostanza. Malit, Deloa, Luis, Brisco, zia Annie, Linda e Jenny, Mawalisa, tuono, cielo, sole, la grande madre di tutte noi, e Afrechete, sua figlia minore, linguista dispettosa, imbrogliona, amatissima, come tutte dobbiamo diventare. I loro nomi, le loro personalità, i loro volti mi nutrono come grano prima del lavoro. Rivivo ognuna di loro come parte di me e scelgo queste parole con lo stesso scrupoloso riguardo con cui scelgo di trasformare la parola in poesia. L'essenza profonda, le visioni muovono tutte le nostre vite. Un tempo casa era un posto lontanissimo dove non ero mai stata, ma che conoscevo dalle parole di mia madre. Scoprì le sue latitudini solo quando Kariakou non era più casa mia. Là, si dice, che il desiderio di giacere con altre donne è un impulso tramandato dal sangue della madre. Something too. Oh, lovely. è sembrata forse la canzone più adatta a chiudere questo ciclo di trasmissioni che mi ha visto leggere e leggervi Zami, una biomiografia di Audre Lorde. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi ringrazio anche perché la radio mi ha dato, le compagne della radio mi hanno dato modo di leggere e rileggere questo libro a voce alta, e devo dire che è sempre emozionante questo tipo di lettura. Io rimando a chi volesse ascoltare o riascoltare queste trasmissioni e tutte le trasmissioni di Radio Onda Rossa, rimando all'indirizzo mfla.noblogs.org. Io ringrazio ancora Elisa, che è stata con me per tante volte in questo studio e che mi ha accompagnata molto carinamente. La ringrazio ancora e la saluto. Vi ringrazio. Ringrazio voi, ringrazio le compagne della radio e vi auguro una buona estate. E chi non l'avesse letto, prendetelo questo libro, ne vale veramente la pena. Diciamo che è una gran bella botta di forza e di energia per noi donne e lesbiche. Grazie ancora, buona serata e buonanotte. must be underwater now. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater now. The way I feel it. Oh. Oh.